Incontri di Gianfranco Fabi. Notte inconfondibile, la Traviata di Verdi, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Irene Rizzoli. Buonasera. Irene Rizzoli, imprenditrice, responsabile ricerca e sviluppo di Delicious Rizzoli S.P.A., un'azienda di Parma, un'azienda di Parma, e quindi Verdi ci sta bene con Parma. Assolutamente. Quindi la scelta della Traviata di Verdi è solo per un omaggio a un grande parmense o c'è qualcosa di più? Beh, senz'altro la presenza del teatro a noi parmigiani ci segna nel nostro quotidiano, e quindi insomma la scelta della Traviata, come poteva essere altri brandi di Verdi, è un po' a richiamare quello che insomma è la nostra tradizione e la nostra origine. Viva Verdi, quindi viva l'Italia. Irene Rizzoli, il nome Rizzoli un po' più famoso quello, ma anche per altre vicende quello editoriale. C'è qualche contatto tra la vostra famiglia e i Rizzoli editori di libri, editori del Corriere della Sera adesso, no? Certo, no, non ci sono contatti, noi ci siamo sviluppati diciamo sulle conserve ittiche e facciamo un altro mestiere. Quindi Delicious Rizzoli fa soprattutto conserve ittiche, riguardano soprattutto la conservazione delle alici in vari modi, lo conosciamo, lo vediamo nei negozi, molti sicuramente sono anche consumatori, ma come mai a Parma? Sì, se lo chiedono in tanti in realtà, come mai a Parma, perché a Parma ovviamente non c'è il mare. I Rizzoli in realtà arrivano da Torino, sono torinesi di nascita e verso la fine dell'Ottocento fondano con il cavalier Romeo Tosi di Busseto un'azienda che si chiama La Tosi e Rizzoli per la produzione delle conserve ittiche, ma non solo, anche parmigiano, anche conserva di pomodoro. Sono i primi anni diciamo industriale della conservazione industriale di determinati prodotti, e a Parma sta nascendo il distretto industriale delle conserve di pomodoro. Dopo pochi anni, sempre verso la fine dell'Ottocento, nel 1874 circa, la Tosi e Rizzoli si trasferisce a Parma. A Parma sta nascendo appunto il distretto industriale del pomodoro, insieme a tutto quello che riguarda anche la meccanizzazione di un determinato processo. Nonostante le acciughe siano fondamentalmente, come tuttora avviene, una lavorazione manuale, ma la chiusura degli imballi, delle scatolette, avviene meccanicamente. Acciughe o alici? Alici o acciughe, questa è la domanda. E in realtà sono esattamente la stessa cosa, perché la specie a cui si fa riferimento è l'engraulis engrasiculus, però sostanzialmente è lo stesso pesce. È assolutamente lo stesso. Ecco, ma l'ho interrotta, stava spiegando appunto l'arrivo della meccanizzazione, l'arrivo appunto anche di una certa industria che supera la fase artigianale e diventa una vera e propria industria nell'ambito parmense. Esatto, e quindi diciamo Parma, culla diciamo del Food Valley, è spesso ricordata appunto per i salumi, per il parmigiano reggiano, la pasta eccetera, in realtà in pochi sanno che è anche diciamo la culla del distretto industriale delle conserve ittiche di specialità, nella fattispecie le acciughe, perché oltre il 70% delle alici commercializzate in Italia sono di aziende che hanno sede e origine a Parma. E che sono cresciute poi, si sono anche diversificate, sono nate magari da dipendenti che si sono messi in proprio, quindi adesso c'è una costellazione di aziende in questo settore. Sì, assolutamente, nasce appunto come dicevo prima la Tosi e Rizzoli, che poi per vari avvicendamenti si trasforma in Rizzoli Manuelli, un dipendente della Ligure Emiliana, che era un'azienda che diciamo faceva scatolette, si chiamava Ettore Zarotti, e Ettore Zarotti, che aveva uno spirito imprenditoriale sicuramente molto sviluppato e sicuramente una persona molto intelligente, fonda la Zarotti S.P.A. Dopo pochi anni viene ceduta e diciamo gli eredi ne fondano un'altra che si chiama Isola d'Oro, Quindi tutte storie italiane che, appunto, che si incrociano, che dimostrano poi in fondo una grande volontà imprenditoriale, una grande volontà di fare, una possibilità appunto di sfruttare anche non solo le caratteristiche del territorio, perché appunto le alici non si trovano nei fiumi ma si trovano nel mare, ma appunto sfruttare anche le tradizioni del territorio. Ma è un po' complicato però lavorare le alici a Parma e andare a pescare. Dove si pescano? Sì, allora si pescano l'alice o l'acciuga, che dir si voglia, è un pesce pelagico, quindi si trova, diciamo, in tutto il Mediterraneo. Anzi, sì, leggenda vuole che nasca dal Mar Nero e poi nelle sue migrazioni nuoti in tutto il Mediterraneo, quindi si trova dal Mar Adriatico, Canale di Sicilia, e uscendo dallo Stretto di Gibilterra sale verso nord, verso la Spagna, quindi le famose alici del Mar Cantabrico, oppure a sud nell'Oceano Atlantico di fronte al Marocco. È chiaro che la nostra strategia, appunto quella di Delicius, è stata quella di trovarsi vicino ai luoghi di pesca, dove si pescano le acciughe e laddove è possibile lavorarle entro le 24 ore. C'è un vecchio detto che dice: l'alice ha 12 virtù e ogni ora che passa ne perde una. Questo significa che ovviamente anche per la conservazione delle alici il fatto di poterle lavorare dal fresco immediatamente porta con sé un valore aggiunto e soprattutto la possibilità di avere un prodotto eccellente. Ecco, quindi è una lavorazione che voi seguite non direttamente, però avete dei fornitori, diciamo. No, seguiamo direttamente, sono tutti i nostri stabilimenti che seguiamo direttamente, sia con il controllo qualità che con i nostri, diciamo, per il nostro personale specializzato. Una figura molto importante nel nostro settore è quella del maestro salatore, che è ancora un mestiere molto tradizionale e che comunque viene ancora tramandato anche nella nostra azienda, che comunque prevede vari stabilimenti, ancora da padre in figlio. Ma come arrivano le alici dai luoghi di pesca, appunto del Mediterraneo, la Sicilia, lo Stretto di Gibilterra, come arrivano a Parma? Per mare, per terra, per aria? Beh, no, sicuramente su ruota, questo senz'altro. E le alici, come dicevo prima, hanno diverse fasi di lavorazione. La prima fase di lavorazione è la salatura. È un po', diciamo, lo stesso processo enzimatico che prevede la trasformazione della carne come il prosciutto. Quindi viene sostanzialmente messa sotto sale e fatta maturare per mesi nei loro barili sotto sale. Questa è una procedura totalmente fatta anche questa mano, che prevede appunto la scapatura, quindi si toglie. E questo si fa sui luoghi di pesca? E questo viene fatto assolutamente sui luoghi di pesca. Poi abbiamo diversi stabilimenti in tutto il Mediterraneo dove si svolge anche la seconda fase, che è quella della filettatura, operazione anch'essa completamente manuale, che tutte le volte che lo dico in tanti si stupiscono, ma effettivamente quello che in pochi sanno è che dietro un vasetto di alici c'è una grande delicatezza e una grande manualità, proprio perché tutte queste alici vengono messe a mano dentro i vasetti o nelle scatole. Ecco, come lo dice, rivela la passione per questo lavoro, per questa lavorazione, che è qualcosa appunto di artigianale, che è un utilizzare al meglio appunto una ricchezza poi della natura. E peraltro tutte queste cose lei le ha scritte anche in un libro che si chiama Alice o Acciuga, questo è il titolo del libro? Sì. O il titolo è Alici? No, è Alice Acciuga, e c'era un po' il desiderio appunto di fare questa domanda al lettore per provare a vedere se effettivamente c'era una risposta. Come detto prima, sono esattamente lo stesso pesce. Per quello che riguarda il pesce fresco, viene solitamente chiamato acciuga, quindi pesce fresco e salato. Poi quando, diciamo, questo pesce viene trasformato in filetti, di solito vengono chiamate alici, ma è quindi assolutamente il titolo del libro è Alici, comunque. Alici acciughe. No, Alici acciughe. Quindi esatto. Questo è proprio il titolo del libro, un libro edito da Mondadori, non da Rizzoli, e è un libro che è appunto appena uscito, in distribuzione in questi giorni, e è un libro anche fotografico, delle bellissime fotografie, anche queste sono sue? Sì, abbiamo, no, ovviamente non sono mie, ma sono di una bravissima fotografa che si chiama Stefania Giorgi, che ha avuto, diciamo, la delicatezza di riuscire a capire quello che voleva essere un po' il mio messaggio. Questo libro nasce anche per un po' per raccontare quello che è una sfida un po' ai luoghi comuni, appunto Parma lontana dal mare, ma alla fine diciamo centro assolutamente nevralgico di quelle che sono le aziende della produzione. Solitamente nell'immaginario collettivo c'è legato all'acciuga il pescatore siciliano, certo, il carretto siciliano, eccetera eccetera, che per carità non mancano, ci sono nel processo di lavorazione, però poco si era detto dell'industria. Noi abbiamo delle etichette molto piccole su cui scrivere le nostre informazioni e solitamente è molto difficile poter spiegare una storia che merita, secondo me, di essere raccontata. E che va non solo nel mercato italiano, ma esportate anche all'estero. Sì, qual sì. è il maggiore mercato estero? Allora, il maggiore mercato è il Giappone. Incredibile. Il Giappone ama molto, diciamo, questo tipo di preparazione. Evidentemente loro hanno nella loro cultura anche il gusto per ovviamente mangiare il pesce, ma anche questi sapori un po' sapidi e questo... Ecco, magari di sapori e anche magari di ricette di cucina parleremo nella seconda parte del nostro programma. Dobbiamo fermarci un attimo, ma restate con noi, tra pochi secondi torneremo con Irene Rizzoli a parlare di alici e acciughe. Incontri. Ancora con le note di Giuseppe Verdi, con l'ouverture della Traviata, un omaggio a Parma, un omaggio all'Italia. Riprendiamo il nostro incontro di questa sera, grazie a chi è rimasto con noi, benvenuto a chi è arrivato e benvenuta e grazie a Irene Rizzoli. Buonasera, grazie. Irene Rizzoli, responsabile di ricerca e sviluppo della Delicious Rizzoli, un'azienda di Parma, appunto, un'azienda che produce alici. Che produce alici da quanto? Da quanto tempo? La Delicious nasce oltre 40 anni fa, ma è, diciamo, erede della tradizione della famiglia Rizzoli, che diciamo risale all'Ottocento, risale alla fine dell'Ottocento. Si spiegava appunto nella prima parte. Alice Rizzoli ha anche realizzato un libro edito da Electa Mondadori che appunto ha un titolo Alice o acciuga. Ci ha spiegato nella prima parte che è la stessa cosa, chiamatela come volete, ma mangiatela. Allora, dicevamo dove viene raccolto, dove viene pescate, dove vengono pescate queste alici? Nel Mediterraneo, attraverso che sistemi? Sì, come dicevo prima, le alici si pescano nel Mediterraneo, l'Engraulis engrasiculus è appunto questa specie che nuota nei nostri mari. Che è un pesce azzurro? È un pesce azzurro, sì sì. Quindi fa parte della categoria del pesce azzurro. Esatto, esattamente. E è un pesce selvaggio, quindi va pescato con... ovviamente è un pesce pescato, quindi non può essere allevato. E ancora viene pescato col metodo tradizionale, ossia con i pescherecci a lampara. E la cosa, diciamo, che forse in pochi sanno è che la pesca delle acciughe non avviene tutto l'anno, ma avviene solo in determinati periodi dell'anno, sia da aprile a ottobre, e avviene solo nelle notti di scuro. Le notti di scuro sono chiamate così perché sono le notti senza luna. Questo perché per pescare queste alici viene posizionata una fonte di luce, una lampara che richiama queste alici dal fondo e si ricompattano in branco per poter essere pescate. È un tipo di pesca, come dicevo prima, ancora tradizionale, e è un tipo di pesca selettivo e ancora molto, diciamo, sensibile a quelle che sono comunque le tematiche legate al mondo della pesca, perché è una metodologia di pesca che comunque preserva il fondale marino che e quindi preserva anche la capacità riproduttiva poi di questi pesci. Quindi ce ne sono ancora? Ce ne sono ancora la pesca proprio perché è legata appunto anche alle condizioni climatiche, un po' come nell'agricoltura, è fortemente influenzata dalla instabilità o stabilità del tempo, quindi è ancora una pesca difficile, quindi i mari ne sono assolutamente ancora pieni. Ovviamente la pesca è influenzata da queste fluttuazioni anche meteorologiche che possono permettere o meno la pesca. Negli ultimi anni effettivamente se ne è pescate forse un po' meno, ma proprio perché era dovuto al tempo. Ecco, parlavamo nella prima parte del fatto che i vostri prodotti sono non solo in Italia, l'Italia resta il maggiore mercato, ma vengono venduti anche all'estero. Mi diceva il maggiore mercato è il Giappone, ma come le usano i giapponesi le acciughe? Allora, sì, sostanzialmente gliele abbiamo dovuto un po' insegnare noi, non era un gusto che conoscevano, proprio perché è un'alice che viene pescata nei nostri mari, ma ha incontrato subito, diciamo, il gusto dei giapponesi, anche perché è un gusto sapido che comunque si avvicina ai loro sapori. So che in alcuni ristoranti le utilizzano proprio per fare anche la pasta, quando vogliono proporre un piatto di pasta tipicamente italiano. D'altra parte c'è una proprio una delle nostre, dei nostri prodotti, diciamo, di punta, che amiamo di più, forse anche perché ci siamo legati effettivamente, sono le alici in salsa piccante. Le alici in salsa piccante sono una specialità che i primi del Novecento in diverse aziende producevano, era un po' una ricetta di famiglia. E così è stato per le nostre alici in salsa piccante. Adesso solo poche aziende fanno le alici in salsa piccante, ma la ricetta è rimasta segreta da oltre 100 anni. Appunto, gli stavo chiedendo com'è la ricetta. La ricetta è assolutamente segreta e viene fatta ancora dagli imprenditori, quindi la facciamo solo io, mia madre, mio padre e mio fratello, quindi nessun altro è a conoscenza di tutti i passaggi che stanno dietro a questa. Ma i componenti essenziali, il pomodoro? No, il pomodoro non c'è. Sono tante, ovviamente, aromi naturali, alcuni ingredienti che poi peraltro sono anche dichiarati in etichetta, però devo dire che è una cosa talmente complicata che anche dicendo tutti gli ingredienti secondo me difficilmente si potrebbe arrivare. Bisogna fidarsi. È un po' come la Coca-Cola, che nessuno sa esattamente. Però è buona, e poi si mangia, ovviamente. Sì, sì. Ecco, come le cucina lei le alici? Come le usa? Dunque, io in vari modi. Devo dire che a me piace metterle nelle verdure, a me piace molto cucinare le verdure, quindi devo dire che la uso spesso anche magari al posto di altri insaporitori, perché ha un gusto sapido e questo mi permette magari di usare un po' meno sale. Si possono usare nella pasta, come si dice, sulla pizza, però alla fine la morte è un po' come la morte dell'acciuga, a mio avviso è un po' come per il culatello, con un ricciolo di burro su un crostino di pane, quindi proprio in modo che si senta tutto il suo sapore in fondo. Esattamente. Ecco, quanti tipi di prodotti avete? Pensate magari di allargare quest'ambito di produzione? Allora, noi sostanzialmente siamo conosciuti per i filetti di alici, dove siamo appunto leader, ma anche nelle sardine, nei filetti di sgombro, nei gamberetti. Devo dire che più che allargare ad altre famiglie, secondo me è bene fare bene il proprio mestiere. Noi siamo nati, diciamo, dalle alici e questo è la cosa che ci identifica, ci riconosce e che comunque ci dà un'identità, per cui secondo me fare bene il proprio mestiere, abbiamo già fatto buona parte del nostro lavoro. Ecco, fare bene il proprio mestiere, avere un'impresa piccola media, voi fate circa 40 miliardi di 40 milioni di fatturato, fossero 40 milioni di fatturato, comunque avete sedi in altri paesi, in 5 paesi mi sembra. Sì, ecco, non è facile in Italia. Quali sono gli ostacoli che incontrate per fare impresa in Italia? Oltre ai soliti, si pagano sopra tasse e così via. Purtroppo però sono i soliti, perché sono quelli che effettivamente per fare impresa sono quelli che il costo del lavoro, il cuneo fiscale, il trasporto. Già oggi per venire a Milano mi sono fermata in tangenziale quando penso che ci potrebbe essere un mio camion che arriva in ritardo per un punto vendita, già quello è un grosso limite. Certo, quella delle strutture è chiaro che siamo anche nella culla del mangiar bene, quindi non è nostra intenzione spostarci, insomma. Ecco, ci vuole anche da un punto di vista alimentare un po' di educazione alimentare forse da parte degli italiani. Adesso sta avanzando la logica del fast food, no? Più che dello slow food. In questo senso, come sono cambiate le abitudini e come questo cambiamento di abitudini ha un po' cambiato anche il vostro approccio al marketing o alla produzione? Sì, sicuramente la logica del cerco di fare veloce nelle nostre preparazioni, diciamo, in quello che preparo, è sicuramente un driver nella scelta del consumatore, questo indubbiamente. I nostri sono però prodotti ancora che svolgono una funzione di gratificazione, quindi probabilmente non penso a una scatoletta di alici per mangiarmi un pasto veloce, ecco, questo no. È chiaro che il consumatore, magari italiano, è sempre più spesso bombardato da stimoli di fast food, come diceva lei, però sono anche convinta che piano piano si stia sviluppando una coscienza critica di quello che si sceglie. Noi siamo i leader di mercato, ma proponiamo anche un'acciuga di un certo tipo, un'acciuga di alta qualità. Purtroppo scendere a compromessi con la materia prima si può fare, si spende meno, ma purtroppo con l'alice è una situazione pericolosa, perché certo, quando l'alice è buona è buonissima, se l'acciuga non è tanto buona a mio avviso è immangiabile. Ecco, quindi la scatoletta rimane un classico, non pensate di superarla come packaging, anche se è cambiata, perché non c'è più la scatoletta che si apre col vecchio apriscatole, ormai esatto, più, quella chiavetta più, esatto, che è molto, erano molto romantiche, era devo molto dire romantico, che sì. Io amo molto ancora la scatola di latta. Adesso abbiamo, diciamo, abbiamo raccolto quelle che sono le sfide anche di materie plastiche, e proprio per questo abbiamo concepito una nuova scatoletta in materiale plastico trasparente a barriera, e che ha vinto tra l'altro un premio adesso nella SIAL 2014. Io però rimango nostalgicamente affezionata alla nostra scatoletta di latta, anche perché sono quelle che comunque hanno fatto la storia e che, insomma, sulle materie plastiche staremo a vedere come si comporteranno nel futuro. Quelle di latta hanno fatto davvero la storia. Sì, quelle di plastica forse costituiscono ancora un po' una barriera anche psicologica, perché abituati a una certa tradizione, abituati a un certo tipo di prodotto, forse, ecco, forse bisogna puntare ai giovani. I giovani potrebbero, esatto, avere più possibilità, più, essere più attirati verso le novità anche di tipo così di marketing. Sì, staremo a vedere se vincerà questa scatoletta, se vincerà le sfide come l'ha fatto chi l'ha preceduta, insomma. Quindi per crescere voi restate nel vostro settore, puntate a qualche mercato in particolare oltre al Giappone e all'estero? Beh, il mondo è veramente, si sta allargando, le frontiere del mangiare Made in Italy si stanno allargando, quindi siamo presenti anche in Inghilterra, sicuramente gli Stati Uniti sono un grande mercato, e siamo convinti che comunque questo sapore per certi versi è anche un po' piccante, un po' particolare, leggermente salato, secondo noi potrebbe incontrare tranquillamente il gusto degli americani. Il gusto degli americani, quindi potrebbe essere anche un momento in cui collegare appunto questo prodotto a tanti altri prodotti italiani che possono appunto anche portare un po' l'immagine dell'Italia, che è già abbastanza forte, che però deve essere anche un'immagine di qualità. Ecco, concludiamo facendo un piccolo ragionamento anche sull'Expo. Da qualche settimana è aperta questa esposizione a Milano, al di là delle polemiche dei primi giorni. Lei pensa che possa essere un elemento di risonanza per il Made in Italy, per l'Italia, per la capacità italiana di fare il bello e il buono? Sì, questo senz'altro è una grande vetrina che ci deve vedere impegnati tutti in prima battuta a poter dare il meglio di noi, a poter far conoscere i nostri prodotti e le nostre eccellenze a tutto il resto del mondo. Ecco, perché a livello di qualità l'Italia non ha nulla da invidiare all'estero, anzi ha qualcosa da insegnare all'estero su questo fronte. Penso di sì. Quindi ecco, possiamo dire che parlando di Alici parliamo un po' anche di una grande realtà alimentare. Abbiamo cominciato anche parlando di Parma. Parma in fondo ha l'atmosfera giusta per le cose belle e buone. Ha parlato lei, anche ci ha dato il culatello, ci ha dato i prosciutti, ci ha dato anche a tutti gli altri alimentari. Parma resta una grande realtà, una realtà in cui è bello lavorare. Sì, devo dire che ovviamente io a Parma ci sono nata, ne ho assorbito un po' le tradizioni, e quindi anche questo desiderio di mangiare bene, di amare il proprio prodotto, le proprie specialità, sicuramente è una cosa che ci appartiene. Paradossalmente mio marito, che non è di Parma, tra le prime volte che veniva a Parma mi diceva: ma come mai voi parmigiani parlate sempre di cibo, parlate sempre di dove andare a mangiare? Per noi il cibo è anche un momento per stare insieme, per scambiarsi per la qualità della vita, per in la fondo, qualità della con, vita. E quindi è meglio non mangiare troppo ma mangiare bene. Grazie mille, grazie a Irene Rizzoli, responsabile ricerca e sviluppo di Delicious Rizzoli. Abbiamo parlato di Alice, abbiamo parlato di acciughe, abbiamo parlato di mangiare, abbiamo parlato di Parma, abbiamo parlato dell'Italia, abbiamo parlato di tante cose. Speriamo di non aver annoiato i nostri ascoltatori, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato e commentato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.